Allora, adesso la parola a Guidotti, Francesco Antonio, Piemonte Orientale. È l'ultimo intervento della mattinata. Ascoltatelo bene. E cominciamo a chiamare... In questo senso, di solito l'ultimo intervento viene apprezzato, che spesso c'è la rinuncia dell'ultimo intervento perché giustamente c'è l'attesa per le conclusioni, e quindi si danno anch'io per fare questa scelta, nel senso di dire che ci sembra giusto ascoltare Gigi. Ma ho voluto intervenire lo stesso, non, e quindi ho cambiato completamente quello che avevo scritto nel mio intervento, non per fare un intervento, ma per fare due ringraziamenti veramente, veramente che mi vengono dal cuore. L'organizzazione di questo congresso, con il filmato all'inizio, con la tavola rotonda che c'è stato adesso, con le sottolineature, con la relazione di Rosina che approvo in pieno, ma non è un modo di dire, ci credo veramente, e con le sottolineature degli interventi, hanno accresciuto, già c'era in me questo orgoglio di appartenere a questa grande e bella organizzazione sindacale, ma si è accresciuta di molto. Anche l'ultima parte, quando c'è stato il ricordo e il richiamo a quelle tragedie che stanno avvenendo in Siria, e io ho un nervo scoperto perché da pochi mesi sono anche nonno, tutti i bambini, tutti siamo nonni, sono uguali, ma effettivamente il ritornare a quegli errori che colpiscono principalmente i più deboli, i bambini, un'organizzazione sindacale non può rimanere indifferente. Quindi ringrazio anche per questa sensibilità, l'avrei fatto io a conclusione dell'intervento. Quindi veramente io sono orgoglioso di appartenere a questa organizzazione. Dei punti che ne avrei parlato ve li cito solo per titoli, perché spero ci saranno altre occasioni magari per approfondirli di più, sia sulla questione, la contrattazione, ha fatto benissimo Arnolfo a parlare e a dare degli input, la contrattazione sociale, il federalismo, il ruolo delle regioni, dei comuni, io vengo da quella storia, avremo modo, ripeto, di approfondirlo. L'ho iniziato fin dalla fine degli anni 90, quando Gigi era a livello nazionale, cominciamo a fare a Firenze i corsi sul federalismo a costituzioni invariate, no? Ricordi anche Marco Lombardo e così via. E direi con tutta una serie di problemi che già allora avevamo individuato e che ce li ritroviamo purtroppo ancora tutti oggi. La questione del ruolo dell'FNP, tanti ne hanno già parlato, confederale sì, come, in che maniera. La questione che ieri mi ha dato fastidio sinceramente, che il rappresentante della UIL venga a chiedere alla CISL di farsi partecipe di un progetto di legge sull'invecchiamento attivo. Un anno fa, quando ero ancora confederale, facevo un'iniziativa pubblica per fare in modo che in Piemonte si potesse andare in quella direzione. Certo che ci sono dei disegni di legge nazionale, ma che sono bloccati. E facendo un ragionamento a livello regionale si può fare, quindi per dire... non lasciamo anche ad altre iniziative nostre, intestiamoci queste, poi è ovvio che bisogna farlo assieme alla Confederazione in primis e alle altre organizzazioni sindacali, però veramente facciamo in modo che venga anche visto come nostra iniziativa. La questione degli accorpamenti, io vengo da tantissime storie di accorpamenti, avremo modo, poi come tutti gli accorpamenti e le riorganizzazioni viaggiano sulle gambe delle persone, quindi poi bisogna anche capire quali sono i dirigenti chiamati, i gruppi dirigenti chiamati a fare quello. Avrei voluto iniziare, quindi dico solo queste due cose, che proprio con quel filmato di quella mattina di ieri, dove c'era la testimonianza, mi ha toccato molto, del perché qualcuno ha scelto questa organizzazione piuttosto che l'altra. E molte delle testimonianze erano che, pur essendo la CISL un sindacato radicato e nato in quelli che sono i principi cristiano-cattolici, ha scritto un bellissimo statuto, l'articolo 2 dello statuto confederale, qualcuno l'ha letto, che è un sindacato libero, autonomo. Ed è stata la molla che ha fatto scattare l'autonomia, il sindacato della contrattazione, ma io dico l'autonomia dai partiti, sì, e molti hanno scelto questo, l'autonomia dalle varie ideologie, sì, l'autonomia anche di confessione religiosa, pur proveniente dal mondo cattolico, giustamente. E lo dice uno che lo può testimoniare in diretta, non è per io, tanti lo sanno, sono di fede religiosa protestante, e mai, dico mai, nella mia esperienza religiosa, nella mia esperienza sindacale e di percorsi ne ho fatte diversi, mai nessuno ha detto ma tu perché sei protestante non cattolico, sì, no, c'era qualche problema. Questo mi ha permesso di poter essere orgogliosamente protestante ed essere orgogliosamente cislino. Bellezza di questo sindacato è proprio questo. E comunque ricordare che come nella tavola rotonda ci è stata ricordata la figura di Passalacqua, che è bello, la CISL è un sindacato laico, ma laico nel senso buono, non laicista, è un sindacato che riconosce e apprezza tutti gli orientamenti, quindi dobbiamo essere orgogliosi di appartenere a questa grande organizzazione. Sugli aspetti tecnici penso, spero, che avremo modo di approfondirli in seguito. Grazie. Grazie.